Vigilia elettorale in Emilia-Romagna e Calabria, si vota domenica e il governo sceglie la serata di ieri per varare il decreto con il taglio delle tasse sul lavoro per i redditi fino a 40.000 euro. Vigilia elettorale, ieri Sardine e Salvini si sono divisi le piazze di Bibbiano tra accuse reciproche. Vigilia elettorale, il Movimento 5 Stelle si dibatte nella scelta del prossimo leader, i nomi che circolano di più: Appendino, Di Battista, Taverna, almeno per il momento. Nel frattempo però arriva il via libera al referendum sul taglio dei parlamentari e con questo gli infiniti calcoli su quando celebrarlo per allungare o accorciare la legislatura. È, se volete, il secondo, terzo, quarto incomodo, per così dire. Nel mondo si guarda la Cina, la diffusione del coronavirus che desta preoccupazioni, anche se l'OMS dice che al momento non è qualificabile come emergenza internazionale. 26 le vittime, centinaia i contagiati, mentre il caso sospetto di Bari, stando alle prime verifiche, non sarebbe legato appunto a questo virus. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Oh, e meno male che con oggi finisce questa campagna elettorale, ragazzi, Detto ciò, potrebbe ricominciare lunedì stesso, però insomma, ecco, intanto tiriamo un sospiro di sollievo per questo fine settimana. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, fate sentire la vostra voce, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:32 minuti. È giovedì 23 gennaio, in regia ci sono Carmelo, Lauricella e è venerdì e dai, Mamma mia, ragazzi. Ogni venerdì sbaglio la data perché è venerdì e quindi ci arrivo un po' col fiato corto. Venerdì 24 gennaio, naturalmente. Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, come sempre, la pagina di 24 Mattino. Vi dico tra l'altro che poi subito dopo la trasmissione, verso le 9:15, 9:30, sostituiremo il nostro consueto spazio di fuori rassegna con una piccola diretta video con voi, staremo insieme, quindi collegatevi, scrivetemi, insomma leggeremo qualche mail che ci è arrivata in questi giorni. Parleremo un po'. Il nostro canale Instagram, sul quale riceviamo e pubblichiamo volentieri le foto della vostra mattina, raccontateci con una foto, insomma, com'è la vostra mattina, cosa vedete dalla finestra o dal finestrino, però da fermi, mi raccomando, o dal parabrezza. E poi c'è l'account Twitter. Oh, prima di andare a sentire qualche voce, Daniela Preziosi del Manifesto, ciao Daniela, buongiorno, bentornata. Bentrovato, bentrovati tutti e tutte. Volevo dirti che non finisce mai comunque. No, la campagna elettorale in questo paese non finirà, no, perché ci sono, ti prego, che vada, ci sono le regionali in primavera. Ah, già, è vero, che è vero, vada, è vero. Perché altrimenti comunque può essere che parliamo subito di nazionali, di leggi politiche. Quindi assolutamente non finirà, mai. Prima ancora di andare a sentire le voci di questa mattina, ti coinvolgo subito. Vai di scenario, perché adesso, come dicevo in apertura, si è inserito il terzo incomodo, che è il referendum sul taglio dei parlamentari. La spiego agli ascoltatori il più semplicemente possibile, perché poi è tutta una questione di date. Allora, adesso il Consiglio dei Ministri dovrà stabilire la data nella quale celebrare questo referendum ed è tra marzo e giugno tendenzialmente. Stanno iniziando tutta una serie di calcoli per capire, anche sulla base di se reggerà la coalizione, se non reggerà, eccetera eccetera, su quando celebrare questo referendum. Perché? Perché non puoi andare a votare per il numero di parlamentari che abbiamo adesso con la spada di Damocle che dopo due mesi il numero di parlamentari viene tagliato. Se il numero di parlamentari viene tagliato, poi dopo devi ridisegnare i collegi elettorali e quindi non è tutto così semplice. Quindi scenario, Daniela, alla luce di tutto ciò, secondo te quanto dura questa legislatura? Dura di più del referendum, perché adesso ti dico perché secondo me, e anche un po' parlando, è vero che se si andasse a votare prima del referendum parlamentari avrebbero la possibilità di essere rieletti, però questo ragionamento funzionerebbe se esistessero i partiti ancora e avessero questa idea. Qui in questo momento ogni parlamentare, la dico male, chiedo scusa per la banalità di prima mattina, però ogni parlamentare pensa per sé. Per cui se ci fossero i partiti e facessero il calcolo i partiti forti facessero il calcolo così lucido, no? Riproviamoci, sarebbe un discorso, ma non è questa l'atmosfera anche politica, il ragionamento politico che si fa in Parlamento. In questo momento il Parlamento si sta in maggioranza, ma anche buona parte di quelli che stanno in Parlamento cercano di tirare più a lungo la legislatura per nobilissimi motivi di cui parleremo fra poco. Sì. Allora, naturalmente c'è questa, appunto, c'è la questione del voto in Emilia Romagna, bisogna vedere come va, e questo che impatto avrà. Ricordiamoci che l'eventuale fine di questo governo non vuol dire necessariamente la fine della legislatura, sempre ammesso che il Presidente della Repubblica si è disposto a far formare un nuovo governo. Comunque là appesi siamo appesi all'Emilia Romagna. Ieri ancora dalla piazza di Bibbiano, che si è divisa in due, da una parte il comizio di Salvini, dall'altra parte la riunione delle sardine, sì, è stato detto, ma insomma, i numeri non ce li abbiamo precisi e non li sappiamo, 1000 con Salvini, 3000 con le sardine, poco importa a dire il vero, insomma, comunque questo luogo che è diventato, no, un po' il simbolo suo malgrado di questa campagna elettorale. Salvini, sentiamolo, va. Non siamo qua ad accusare nessuno, ma siamo qua a chiedere giustizia a nome di quei bimbi e di quelle mamme che vi prego di abbracciare a nome del popolo italiano, perché se aver organizzato un evento come questo in pochi giorni ha portato queste migliaia di persone da tutta Italia a venire a portare la loro testimonianza, vuol dire che in Italia c'è un problema, e come c'è scritto su quel cartellone, i figli sono della mamma e del papà e non dello Stato o di una burocrazia. Vabbè, diciamocelo, è un po' semplificatorio messa così. Perché poi il sistema degli affidi sicuramente va ripensato, probabilmente va riformato, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni più di una volta, e però, ragazzi, non è in questo modo, cioè non è con questi ragionamenti che si riforma l'affido. Perché a volte togliere i bambini ai genitori è giusto, molto semplicemente, per farli crescere meglio. Siamo molto chiari su questo. Comunque, l'altra piazza è quella delle sardine. Il frontman Santori, Bibbiano da oggi è nostra. Era giusto riappropriarci di alcuni luoghi simbolo che sono stati per troppo tempo degli altri, che adesso abbiamo la potenza di fuoco per poter riprendere. Bibbiano è nostra da oggi. Ma senti, Daniela, io devo dirti la verità, io ho l'impressione che per certi versi, e Bonaccini l'ha fatto capire abbastanza chiaramente ieri, Bonaccini sarà nostro ospite, tra l'altro lo ricordo agli ascoltatori, oggi alle 8:20, queste sardine in realtà abbiano fatto un po' più danno che altro, nel senso che sono state loro a spostare sul piano nazionale la campagna elettorale, esattamente come voleva Salvini. No, io penso che Salvini ha fatto di questa campagna un suo tentativo di riprendersi la scena, ce l'ha fatta anche per, diciamo, assenza degli altri contendenti, e le sardine siano un po' corse ai ripari da questo punto di vista. Salvini, lo si vede dalle performance televisive, abbondantemente aiutato dal servizio pubblico, ha fatto della Emilia Romagna il suo tentativo di riprendersi, diciamo così, il centro della scena, tentativo fin qui riuscitissimo. Le sardine sono nate in Emilia Romagna e sono molto radicate in Emilia Romagna, poi diciamo c'è un franchising che gira in giro per l'Italia. Il franchising delle sardine non è male, il franchising delle sardine. È questo, perché poi le sardine in giro per l'Italia si chiamano sardine ma fanno delle cose molto diverse, no? Pensiamo a Riace, pensiamo in Calabria, per esempio, non si sono schierate dentro la competizione regionale, quindi evidentemente hanno dei principi diversi. Invece sono molto, molto, molto emiliano-romagnole e raccontano anche, diciamo, quella battaglia lì molto, molto sul territorio. E anche la scelta di Bibbiano è una scelta, diciamo, di marcatura a uomo, si potrebbe dire, dal punto di vista calcistico, di Salvini. Quindi no, secondo me poi è chiaro, sono diventate un fenomeno nazionale, sì, perché il tema ci stava, perché appunto l'uomo Salvini ci stava, sì, ma nascono proprio su una marcatura, nascono il 14 novembre a, sì, Bologna, mentre Salvini sta al Paladozza e cerca di, diciamo, sì, nazionalizzare, sì, così loro invece riempiono la piazza simbolo della città. Ma io non penso che abbiano fatto danno, io penso che loro hanno, cioè, danno intendo a Bonaccini, io sono indifferente, sì, certo, rispetto, certo, al risultato, sì, sì, personalmente, no, rispetto al risultato della campagna elettorale. Io non sono affatto indifferente, sono appassionatissima a questi ragazzi e a queste ragazze, non è inutile che lo nego, ti piacciono, ti piacciono, no, ti piacciono, ma vedo che il mondo un po' si divide tra gli amanti, sì, delle sardine, più la sinistra radicale le critica, più a me piace. Fatta così, c'è qualche contraddizione interna. No, mi piacciono perché secondo me loro hanno comunque recuperato una parte del non voto di centrosinistra, che è importante. Ricordiamo che alle scorse elezioni Bonaccini, sì, ha vinto, ma ha votato il 37%. 37% in Emilia Romagna, sì, è un picco negativo molto grave. Sì. E quindi stanno recuperando un pochino sull'area del non voto a sinistra, nel centro-sinistra. Non fuori, naturalmente, non fuori da quel campo. Il tema è però che abbiamo visto le cartine in questi giorni, abbiamo visto le cartine delle precedenti elezioni, l'onda nera, diciamo così, se ne è verde, nero-verde, mm-hmm, diciamo così, l'onda bruna dentro l'Emilia Romagna è iniziata da tempo ed è incalzante, molto incalzante. Una cosa seria, c'è un'ascoltatrice che mi dice: sottovalutare quello che è successo a Bibbiano è irresponsabile, Salvini ha messo il dito nella piaga. No, guardi, io non, mi dice, apra gli occhi, guardi, io non sottovaluto nulla di quello che è successo a Bibbiano, che comunque andrà ovviamente provato dai magistrati a tutti gli effetti, che cosa è successo, in quanti casi è avvenuto, che se è avvenuto che ci siano state delle sottrazioni di minori in maniera illecita ai genitori. È il ragionamento generale, cioè i figli sì sono della madre e del padre, non sono della madre e del padre, sono degli individui affidati alla madre e al padre, cioè che sono i loro figli e quindi loro li devono accudire. Se questi genitori non sono in grado di accudirli, intervengono i servizi sociali. Poi come funziona questo metodo? Prego Daniele. Scusa, posso permettermi a questa ascoltatrice? Adesso non voglio fare la scena pesosa da madre, siamo tutti madri, padri, figli e figli. Ah, figurati, io ne ho tre. Tanto, per carità, appunto. Però il tema, d'accordo, il tema è talmente delicato che deve essere, cioè, che su quella vicenda proprio di Bibbiano andrebbero spente le luci e lasciati i magistrati lavorare, proprio perché è stata spettacolarizzata una vicenda di cui ancora non sappiamo davvero i contorni giuridici, cioè i contorni criminali, se ci sono. Se ci sono, perché al momento tutta la grande ipotesi, diciamo così, è stata molto molto ridimensionata. Allora, siccome stiamo parlando di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, oltre che tutte le famiglie che ci stanno intorno, non negando che possa esistere un problema, li lasciamo in pace a risolvere questa cosa? Perché veramente terribile. Buon punto. C'è un tema più generale, che è quanto la cronaca, e la cronaca nera in particolare, entra all'interno della politica sempre più diffusamente, sempre più frequentemente. Vabbè, ieri si vota anche in Calabria. Ieri al delirio, Silvio Berlusconi, al delirio, sentiamolo. A sinistra c'è una signora che io conosco da 26 anni, non me l'ha mai data. Vabbè, ragazzi, ma che ci vogliamo dire? Vabbè. Lasciamo perdere. Non possiamo scivolare, perché se a stasera di mattina, cioè, se uno perde un attimo il controllo rispetto a fare un commento su una cosa del genere, non so se Santelli è contenta di essere trattata in questa maniera. Lei dice una battuta simpatica, poi Berlusconi rinterviene così. Non parliamo di donne, perché li batto tutti. Questa me la faranno ritrovare sul digitale, dove già la mia battuta di stamattina su di lei, che non me l'ha data, ha fatto affluire: sarei femminista, razzista, non considererei le donne, non so che cosa, di tutto mi hanno detto. Io invece considero le donne, ho più donne che uomini nel partito. Abbiamo ai vertici una donna nostra come Presidente del Senato. Una donna nostra come vicepresidente della Camera. E vabbè, sempre lui, sempre lui. In realtà queste donne che lui definisce in questa maniera, no, divide tra quelli che gli erano e quelli che no, quelle che non. Ma poi in realtà effettivamente è vero che nel momento della crisi di Forza Italia il partito si è fortemente femminilizzato e queste donne che ci sono delle, sì, combattenti di grandissimo livello. Questo è vero, ma questo è un classico, perché quando la politica e le cose degli uomini vanno in crisi, è l'unico momento in cui viene consentito che le donne tocchino palla. Tu vedi, per esempio, nella regione Lazio, quando nessun candidato riusciva a aver voglia di fare, arrivarono le donne, penso a Emma Bonino, insomma, così. E quando c'è la crisi della politica maschile, che le donne toccano palla e magari li fanno anche bene. Allora Daniela, grazie, grazie anche per oggi, ti ritroviamo sicuramente nei prossimi giorni, anche perché mi pare che questa campagna elettorale permanente ci sia. Ci ricordavi giustamente le regionali, ci sarà il referendum. Daniela Preziosi, Il Manifesto, grazie. Traffico. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi. Dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Mattino. Oh, e voglio ribadire, perché poi su questa questione di Bibbiano, come era prevedibile, si è scatenato un putiferio di ascoltatori che scrivono: guardate, io non è che stia dicendo che a Bibbiano non è successo niente. Quello che continuo a dire è che secondo me la magistratura deve appurare, da una parte, e l'impressione è che qualcosa sia successo, e nessuno sottovaluta la tragedia umana di genitori magari per bene ai quali questi figli sono stati sottratti per motivi che non conosciamo. Dall'altra parte, da questo tirare le conclusioni su tutto il sistema degli affidi è, a mio personalissimo giudizio, sbagliato. Magari va riformato, va ripensato, ma se due genitori si drogano, esempio, e non sanno gestire i loro figli per questo motivo, qualcuno, secondo me, è bene che intervenga. Però magari sbaglio io, e avete ragione voi. Allora, Enrico Zanetti, ex viceministro dell'economia, torna da noi. Zanetti, eccoci qua, eccoci, salve. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Te il tema qual è? Vigilia di voto in Emilia-Romagna e il governo dà il via libera al taglio delle tasse sul lavoro, al cuneo fiscale. Per il momento parte come sperimentazione. Per 6 mesi un intervento che riguarderà i redditi fino a 40.000 euro. Che impressione le fa, Zanetti? Chiaramente la presentazione come sperimentale non è un bel vedere, bisogna però riconoscere che sono già pronti 5 miliardi già stanziati per gli anni successivi, quindi è assolutamente credibile la promessa del governo, che poi non sarà solo, come dire, una cosa di 6 mesi, ma troverà una sua stabilizzazione. Forse sarebbe stato meglio fare direttamente un provvedimento definitivo. Certo, questo avrebbe richiesto tempi un po' più lunghi ed evidentemente ci si teneva molto a far uscire intanto qualcosa prima di domenica, questa come valutazione di metodo. Sì. Nel merito, è un ampliamento di un istituto che già c'era, come il bonus, che da 80 passa a 100 euro e viene ampliato in questa forma piena per i dipendenti fino a 28.000 euro, prima si fermava a 26.600, dopodiché da 28.000 a 40.000 comincia a scendere da 100 fino a 0 in modo regressivo, diciamo, il crescere del reddito diminuisce. Fino a 28.000 è confermata la formula, diciamo, del credito d'imposta, sì, anche se in questo caso viene chiamato integrazione al reddito. Sì. Sopra i 28.000 invece è a pieno titolo un aumento della detrazione imposta per lavoro dipendente. Senta Zanetti, nei giorni scorsi lei ha sottolineato un tema, tra l'altro ne ha scritto anche il Sole 24 Ore, un tema che è fondamentale, perché visto che è alle viste anche una riforma proprio della tassazione dell'IRPEF, della tassa sulle persone fisiche, insomma sui redditi in sostanza, sui redditi delle persone fisiche, lei dice, guardate qua c'è un problema autonomi e gli autonomi in tutte queste riflessioni governative, ormai da anni devo dire il vero, a questi non ci pensa praticamente nessuno. Beh, nella scorsa manovra qualcosa era stato fatto, anche sempre in un modo molto parziale, devo dire che comunque finché non la vedo la revisione organica dell'IRPEF non ci credo. Io avevo proposto sin dal 2014 interventi che andassero direttamente a incidere sulla curva di progressività, quindi aliquote scaglioni. Dal mio punto di vista l'emergenza era ed è tuttora anzitutto un intervento sui redditi medi, cioè sulla fascia 28.000-55.000, che oggi ha un'aliquota del 38%, che è folle non per la sua quantità, perché il fatto che esista un'aliquota del 38, del 41, sì, del 43, onestamente non è scandaloso. È scandaloso che si applichino a partire da 28.000 euro. Quindi in Italia si tende come sempre ad affrontare questioni giuste nel modo sbagliato. La revisione dell'IRPEF è giusta, noi stiamo discutendo tutto da sempre di aliquote, il vero tema prima di tutto sarebbero gli scaglioni. Sì. Zanetti, ci fa un esempio della differenza della tassazione attualmente tra un autonomo e un lavoratore dipendente, stesso reddito e stessi carichi familiari? Sì. La differenza nasce dal fatto innanzitutto che quando si ragiona di redditi di lavoro, che siano il lavoro autonomo dipendente o i redditi di lavoro differito che sono le pensioni, bisogna sempre ricordarsi che il prelievo complessivo si compone di due elementi, certo c'è l'IRPEF e le relative addizionali, sì, ma c'è anche tutta la parte contributiva a carico, certo, del lavoratore, certo. Ed è chiaro che se a quel punto si ragiona in questi termini, che in verità sono gli unici in cui ha senso ragionare, e cioè reddito lordo pari, poi togli i contributi a carico, poi togli l'IRPEF, reddito disponibile netto, ecco che allora si vede come a parità di stipendio lordo del dipendente, pensione lorda del pensionato e reddito di lavoro autonomo lordo, a parità di quello il netto disponibile che rimane, pagati i contributi, sì, a carico, che pure sono deducibili ma sono, sì, molto diversi tra i vari lavoratori, e poi IRPEF, gli autonomi rimane un netto disponibile, ripeto, a parità di lordo, sì, mostruosamente inferiore, ma mostruosamente. E questo tipo di analisi consente anche di sminare alcune cose che vengono dette, ad esempio quando i sindacati del lavoro dipendente dicono che il bonus 80-100 euro è un'ingiustizia verso i pensionati. No, se fai questo tipo di confronto ti accorgi che un'ingiustizia che è verso gli autonomi, perché questo strumento consente agli dipendenti di ripristinare un netto disponibile pari ai pensionati che i contributi giustamente non li pagano, perché sulle pensioni non li paghi. Sì. Invece al tempo stesso, non dandolo anche agli altri lavoratori che hanno un cuneo non solo fiscale ma anche previdenziale, si alimenta ancora di più la differenza tra dipendenti e autonomi. Quindi il vero tema oggi è la tassazione degli autonomi. Con la flat tax, sì, si è fatto un lavoro, non si è fatto un intervento scandaloso come anche qui si dice, si è fatto un intervento che per la fascia 30-60.000 ripristina un po' di equità, per la fascia invece sotto i 30.000 lascia ancora gli autonomi esposti a un reddito netto disponibile dopo contributi, sì, e tasse assolutamente inferiore rispetto a dipendenti, sì, e pensionati. Sì, ovviamente il tutto considerato anche, qua chiudo e la saluto, grazie a Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'economia, che come ci scrive un ascoltatore, da autonomo dice a me, se sto male nessuno paga nulla, e quindi c'è anche una questione di garanzie evidentemente. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.